Perfetto Giorno di Simone Spezia. Manovra, nuova proroga per il bonus mobili e ristrutturazioni, detrazioni per i pendolari. Risparmio, migliora la situazione delle famiglie, riprendono i consumi, ma al sud le cose non vanno meglio. Catalogna ha chiesta l'incriminazione di Puigdemont per ribellione e sedizione. Incendi in Piemonte, situazione più tranquilla, ma sono bruciati ettari di boschi. Accusato di molestie da un attore quando questo aveva 14 anni, Kevin Spacey si scusa, ero ubriaco. Ecosistema urbano, Mantova svetta in classifica, Viterbo, Brindisi ed Enna in coda. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666, come sempre il numero per gli sms e per i messaggi su WhatsApp e la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Radio 24, dalla quale andiamo in diretta video, quindi se ci volete vedere potete vederci là e volendo potete commentare anche sulla pagina Facebook di Radio 24, su quella di Effetto Giorno vi leggeremo. Oggi abbiamo dall'altra parte del vetro Miriam Lucchetti in assistenza in redazione, Filippo Oreggi in regia. Iniziamo dunque e iniziamo dalla manovra. È arrivato il testo definitivo. Chi usa i mezzi pubblici potrà detrarre il 19% del costo degli abbonamenti fino a un massimo di 250 euro, mentre chi deve ristrutturare casa potrà beneficiare ancora per un anno del bonus con una novità, lo sconto per giardini e terrazze. E quanto prevede il testo della legge di bilancio, 120 articoli che partono dal rinvio dell'aumento dell'IVA al 2019. Confermato lo sgravio del 50% dei contributi per tre anni per chi assume under 30, inclusi solo per l'anno prossimo i giovani fino ai 35 anni. Crescono le soglie di reddito per ottenere il bonus IRPEF da 80 euro, un modo per tutelare i dipendenti pubblici dopo il rinnovo del contratto. Viene rafforzata la dote del fondo per la lotta alla povertà con un assegno più alto del 10% nei casi di famiglie numerose. Arriva un fondo per le piccole e medie imprese del sud e arrivano 38 miliardi in più per il fondo investimenti. Spunta il pacchetto sport con incentivi per la ristrutturazione degli impianti calcistici e fondi per favorire il vivaio di giovani promesse. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tra poco parleremo anche di risparmio, ci andremo a collegare con Alessandra Schepisi che sta seguendo la presentazione della Giornata Mondiale del Risparmio con tutti i dati. Nel frattempo andiamo alla cronaca con la situazione incendi che è in netto miglioramento in Piemonte, nelle valli torinesi grazie alla diminuzione del vento che sta consentendo l'impiego di elicotteri e Canadair per spegnere le fiamme in Val Susa. Il sindaco di Montpantero ha emesso un'ordinanza per far rientrare i 120 residenti delle frazioni che sono stati sgomberati ieri per il pericolo che le fiamme coinvolgessero le case. Nessuno sgombero per la casa di riposo San Giacomo di Susa, che resta presidiata dai vigili del fuoco, e gli 8 vigili rimasti intossicati ieri sono ancora sotto osservazione all'ospedale di Susa. Di questo andremo a parlare tra poco, parleremo tra poco con l'assessore alla protezione civile della regione Piemonte, perché poi ci sono anche le dichiarazioni che forse avrete sentito che avrete letto del presidente della regione Chiamparino, il quale presidente della regione dice sì, va bene, forse sono stati anche dolosi, ma il tema vero è l'incuria dei boschi. Restiamo sulla cronaca per parlare di una storia che arriva dalla Sicilia. Voleva solo vivere la sua vita, aveva conosciuto un giovane maresciallo dei carabinieri ed era nata una storia. Ma lei non è una donna qualsiasi, è la figlia di Pino Scaduto, un capomafia, il signore di Bagheria e componente della cupola per volere di Totò Riina e Bernardo Provenzano. E quella relazione con il maresciallo per Scaduto era un affronto al codice mafioso che doveva essere punito col massimo della pena, l'uccisione della donna. Così aveva deciso Scaduto in carcere al figlio, che si è rifiutato di eseguire l'ordine, diceva: tua sorella si è fatta sbirra. Questa notte Scaduto è tornato in carcere dopo 6 mesi di libertà. Aveva finito di scontare il suo debito con la giustizia, ma puntava già a riorganizzare Cosa Nostra. Insieme a lui i carabinieri del comando provinciale diretto dal colonnello Antonio Di Stasio hanno arrestato 16 persone. Le indagini della DDA di Palermo, diretta dal procuratore Francesco Loboi e dall'aggiunto Salvatore De Luca, hanno individuato il nuovo gruppo dirigente del mandamento mafioso di Bagheria, che continuava a imporre estorsioni a commercianti e imprenditori. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Andiamo a Norcia adesso. A un anno dalla grande scossa di terremoto si fa il punto sulla ricostruzione e sull'avvio della ricostruzione. Vieni Tante cose sono state fatte, tante, forse molte di più devono essere fatte ancora, però la vita è ripartita e la vita deve continuare. Oggi noi vogliamo ricordare, guardare indietro, ma soprattutto guardare avanti, per ripartire dalle macerie e ricostruire. Queste le parole stamani a Norcia del Vescovo Monsignor Boccardo, a margine della cerimonia religiosa in piazza, proprio davanti alla Basilica di San Benedetto, di cui resta in piedi solo la facciata, nell'anniversario del primo anno del terremoto. Mi spaventa la burocrazia e la lentezza, c'è bisogno di legalità e trasparenza, ma anche di essere veloci per dare risposta alle esigenze delle persone, che sono la priorità, ha ribadito il Vescovo Boccardo. Diverse le autorità insieme a lui, alle 7.41 precise di stamani, lo stesso orario del 30 ottobre 2016, quando un sisma di magnitudo 6.5 sconvolse il capoluogo della Valnerina ed altri centri di questa zona dell'Umbria, in piazza San Benedetto a Norcia, dove hanno suonato le campane. Poi, in un grande silenzio pieno di emozioni, i monaci benedettini hanno intonato il canto Veni Creator. Questo è un momento che chiede preghiera, riflessione e silenzio, ha detto invece padre Benedetto, priore dei monaci benedettini di Norcia, che dopo gli eventi sismici del 2016 si sono trasferiti in San Benedetto in Monte, località alle porte di Norcia, dove stanno costruendo il nuovo monastero. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le cronache dalla Catalogna, cronache degli ultimi minuti che raccontano di un'incriminazione per il presidente Puigdemont per ribellione, anche se per il momento non se ne chiede l'arresto. Siamo in diretta con Barcellona e con Mario Magarò. Mario, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno. Sì, come dicevi tu in studio, il procuratore generale dello Stato, José Manuel Massa, ha appena dichiarato in conferenza stampa la tipologia di reati su cui si fonda la denuncia nei confronti del destituito presidente catalano Carles Puigdemont e degli altri membri del governo catalano. Non si tratta solo del reato di ribellione, come già era preannunciato, ma anche del reato di sedizione e di malversazione di fondi. Puigdemont e gli altri membri del governo rischiano pene tra i 15 e i 30 anni, in sostanza, per aver prodotto una crisi istituzionale che si è chiusa con la dichiarazione unilaterale di indipendenza, ha detto il procuratore generale dello Stato. Qui io mi trovo davanti alla sede del governo catalano, si sono radunate alcune decine di indipendentisti esibendo le bandiere indipendentiste, la Sestelladas, intonando cori in favore del presidente catalano Puigdemont. Intanto Roberto Bermúdez de Castro, che è il braccio destro del vicepresidente spagnolo Soraya Sáenz de Santamaría, è l'incaricato inviato da Madrid quest'oggi per coordinare le prime misure di applicazione dell'articolo 155 della Costituzione. Mario, tu sai chiarirci dove sia, o qualcuno sa chiarire dove sia Puigdemont in questo momento? Perché c'è un giallo su questo, mi sembra di aver capito. No, per la verità non ci sono conferme. Alcuni rumors, parlando così con alcuni colleghi, dicevano di un Puigdemont riunito con i propri avvocati, quindi evidentemente aspettando in attesa della conferenza stampa del procuratore generale dello Stato. Questa mattina soltanto alcuni funzionari dei posti del governo catalano si sono recati regolarmente ai loro posti di lavoro, in primis Josep Rull, che è l'ex ministro di territorio e sostenibilità, che ha postato dalle prime ore del mattino una foto sul proprio profilo Twitter che lo ritraeva al posto di lavoro. C'è da dire però che Joino, il ministro dell'interno spagnolo, ha detto chiaramente che i funzionari hanno a disposizione poche ore per raccogliere i propri oggetti personali e poi in sostanza basta, e andare via, invitandoli a mantenere un comportamento sensato. Grazie a Mario Magarò per questo aggiornamento da Barcellona. Ci spostiamo a Roma invece, dove, come si diceva in apertura, è stato presentato il rapporto tradizionale sul risparmio in occasione della giornata mondiale. Alessandra Schepisi ha seguito i lavori e questa presentazione. Cosa ci dicono i dati? Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno, un quadro piuttosto confortante quello che viene fuori dall'indagine annuale dell'ACRI presentata poco fa in occasione della giornata del risparmio che si terrà domani. Migliora il clima di fiducia tra gli italiani, timori e preoccupazioni stanno lasciando spazio all'ottimismo e crescono le famiglie che si dicono soddisfatte della propria situazione economica e che per la prima volta superano quelle insoddisfatte, ma la crescita è concentrata soprattutto al nord, mentre centro e sud arrancano. Dunque un trend positivo, ma si accentua la polarizzazione tra chi già sperimenta i benefici della ripresa e chi invece è ancora in difficoltà. E dunque dove calano i timori per la crisi si ricomincia a spendere, riprendere i consumi, mentre diminuiscono coloro che riescono a mettere da parte qualcosa. Tuttavia, dice questo rapporto, rimane sempre alta la propensione al risparmio tipica del nostro paese, l'86%, ma torna ai livelli pre-crisi la quota di coloro che preferiscono godersi la vita senza pensare a risparmiare. Infine, dato interessante, rimane sempre molto alta la sfiducia degli italiani sulla tutela dei propri investimenti. 2 su 3 ritiene che gli strumenti di tutela siano inefficaci. Per il momento da Roma è tutto. E grazie Alessandra Schepisi, ci scusiamo con gli ascoltatori per la qualità del collegamento che, come avete sentito, non era eccellente. Speriamo che si sia sentito tutto e veniamo alle vicende che riguardano Hollywood, che si arricchiscono, insomma, tutte queste denunce di molestie, di una nuova e che riguarda in questo caso Kevin Spacey. Good evening. For too long we in Washington have been lying to you. Cade dal trono il protagonista di House of Cards, l'attore Kevin Spacey, e il tonfo fa molto rumore perché apre un nuovo filone sulle molestie a Hollywood dopo il caso Weinstein. Kevin Spacey stamattina in un post su Facebook si è scusato con un attore più giovane, Anthony Rapp, per presunte molestie avvenute 30 anni fa. Secondo Rapp, che si è sfogato con la rivista BuzzFeed News, il protagonista di American Beauty lo avrebbe molestato durante un party a casa di Spacey, quando quest'ultimo aveva 27 anni e Rapp appena 14. Quella di Spacey sul social non è una missione, piuttosto suona come una strategia degli avvocati per chiudere qui la faccenda. Non mi ricordo questo episodio, ma se ho tenuto un comportamento inappropriato da ubriaco, mi scuso. Poi il coming out sulla sua omosessualità, sulla quale in realtà si vociferava da anni. E ora il rischio è che quest'ultima dichiarazione, che può al limite interessare il gossip, offuschi la gravità della prima, che dovrebbe interessare un giudice. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo in grado adesso di aggiornarvi sulla situazione degli incendi e per avere un quadro abbiamo in linea con noi Alberto Valmaggia, che è assessore all'ambiente, urbanistica, programmazione territoriale e anche foreste, parchi, protezione civile della regione Piemonte. Valmaggia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E buongiorno, il quadro della situazione mi sembra che sia migliorato. È leggermente migliorato, nel senso che oggi le condizioni meteo permettono l'utilizzo pieno dei mezzi aerei, quindi 4 Canadair, i 6 elicotteri della flotta legionale, i 2 elicotteri dei Vigili del Fuoco e l'Erickson, l'elicottero speciale dei forestali, possono lavorare bene, mentre ieri le condizioni del tempo, che da un lato impedivano il volo dei mezzi aerei, dall'altro la ventosità favoriva il propagarsi del fuoco. Quindi i fronti sono sempre attivi, si continua a combattere dalla terra e dal cielo, però è leggermente migliorata, l'autostrada è stata riaperta, gli sfollati stanno anche rientrando. Assessore, quindi abbiamo già una stima di massima di quanti ettari di bosco siano andati in fumo? La stima la faremo il giorno dopo che per 2 giorni di fila pioverà e metterà in sicurezza, perché l'unica sicurezza dopo mesi e mesi di siccità e tutto il terreno piemontese, tutto il territorio nostro che è a rischio incendio. Oggi per esempio sono stati intercettati e chiusi sull'origine alcuni incendi in altre realtà, perché c'è una condizione di siccità e anche il fuoco che è stato spento corre sotto e poi ricompare, quindi siamo un po' insomma avanti e indietro rispetto alle condizioni climatiche. Il giorno in cui le precipitazioni, pioggia o neve che sia, ma che venga giù qualcosa dal cielo, ci permette di chiudere l'emergenza, faremo anche poi una stima più precisa sì, dei danni. Presidente Chiamparino ha detto sì, va bene, dolosi ed è probabile che gli inneschi ci siano stati, però il tema vero è l'incuria dei boschi. È anche un altro tema che dovremmo affrontare, in effetti l'incuria dei boschi, ma questa situazione meteoclimatica che è del tutto eccezionale, il fatto che non piova da mesi e mesi e mesi, una siccità che ha comportato un ingiallimento, una caduta delle foglie anticipate, quindi c'è un substrato che basta anche nei pascoli, basta toccarlo, diventa fiamma. E quindi il problema vero è che anche su quello dovremmo rivedere la gestione, ma già stiamo lavorando anche su questo tema, perché sì. Però sono questioni che prendiamo in considerazione con grande impegno dal giorno dopo che l'emergenza è finita. Ad oggi le priorità sono proteggere le persone, proteggere le case e contenere i danni nella parte naturale. La ringrazio, grazie Alberto Valmaggia, assessore all'ambiente della Regione Piemonte. Visto che di ambiente stiamo parlando, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, c'è cioè la classifica delle città per questa classifica dell'ecosistema urbano, che vede in cima la classifica Mantova. Ha seguito la presentazione del rapporto, che poi è avvenuta ufficialmente stamattina, nonostante appunto la classifica fosse oggi sul Sole 24 Ore, la nostra Laura Bettini, che mi ha raggiunto in studio. Laura, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, ecosistema urbano, 24esima edizione, un lavoro di Legambiente, Ambiente Italia e Sole 24 Ore. Le aree tematiche sotto analisi: aria, acqua, energia, rifiuti, mobilità e ambiente urbano. Con ambiente urbano, ad esempio, gli incidenti stradali sono stati conteggiati, con bonus quest'anno attribuiti per azioni specifiche, come potrebbe essere l'applicazione della tariffa puntuale sulla raccolta dei rifiuti. Ebbene, cosa viene fuori, al di là del fatto che Mantova vince, che aumenta il gruppo di quelle che vanno bene? Oltre il 70% degli indicatori positivi, sono ormai numerose le città che li raggiungono, ma aumenta anche il numero di quelle che vanno male, al massimo il 40% degli indicatori. E poi c'è uno zoccolo addirittura di 5 città che sono al di sotto del 30%. Di queste 5 città, 3 sono siciliane, sono Palermo, Catania ed Enna. Simone, poi so che ne riparlerai. Sì, avremo il sindaco di Enna. Vince chi ha pratiche di lungo periodo e coraggiose. Questo sembra un po' il tratto distintivo, cioè non bisogna essere una città piccola del nord per avere dei buoni risultati, ma avere politiche di lungo periodo coraggiose. Allora, cominciamo con il farvi sentire l'intervista al sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, che ci fa un po' un quadro di quello che ha fatto in città negli ultimi anni. E poi andiamo a Cosenza, una città che ha recuperato un numero incredibile di posizioni. Sentiamo intanto però Mantova. Come tutte le città della Pianura Padana soffriamo molto degli sforamenti delle polveri sottili, ad esempio. Siamo sito di interesse nazionale e stanno partendo, speriamo partano la svelta delle bonifiche attese da molti anni. Quindi abbiamo un dovere in più, che è anche quello di rimediare, diciamo, a un pezzo della nostra storia. E questo lo possiamo fare se mettiamo insieme anche ricerca, innovazione tecnologica, oltre che alcune scelte coraggiose. Noi abbiamo investito molto, abbiamo più 9% di ciclabili rispetto al 2015. Stiamo rifacendo il piano mobilità, obiettivo togliere le auto da molte zone del centro, stiamo rafforzando il trasporto pubblico, abbiamo fatto navette gratis dalle 7 alle 21 che portano dai parcheggi al centro le persone ogni 10 minuti e abbiamo ad esempio investito 1.200.000 euro semplicemente nell'ultimo anno per 1.300 nuove piante in città. Così dunque il sindaco di Mantova. Noi adesso ci fermiamo perché siamo andati lunghi, Laura, sul traffico, quindi sentiamo cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo e sentiamo anche il sindaco di Cosenza. Poi nel nostro giro d'Italia parleremo anche, forse siete già per strada, state andando davanti alle scuole dei vostri figli a recuperarli anche se fanno le medie, perché sapete c'è questa sentenza di Cassazione, poi quello che ha detto il ministro Fedeli, per cui dato che il codice penale prevede che l'abbandono di minore sia sotto i 14 anni dovete andarli a recuperare a scuola, ebbene c'è chi sta pensando ad una legge per aggirare questo problema, una senatrice del Partito Democratico che avremo ospite tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia e sempre 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo anche in diretta video e potete attivare le notifiche per sapere quando siamo in diretta. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della manovra, dei nuovi dati sul risparmio, di Catalogna, degli incendi in Piemonte e della vicenda di Kevin Spacey. Adesso continuiamo in realtà il nostro giro d'Italia e lo facciamo perché stiamo parlando del rapporto ecosistema urbano 2017, una sorta di classifica delle città per come gestiscono il loro ambiente. Con Laura Bettini eravamo rimasti in sospeso su una città del sud che ha fatto grandi passi avanti. Laura, no? Dicevamo sì, Cosenza, che passa dal 33esimo al 13esimo posto in un anno, ma se contiamo qualche anno in più, Cosenza è risalita da oltre il 90esimo posto al 13esimo di quest'anno. E si diceva appunto di scelte che devono essere coraggiose, ne abbiamo parlato con il sindaco Mario Occhiuto. Abbiamo investito molto sulle buone pratiche, sulla raccolta differenziata, noi le facciamo col sistema del porta a porta, quindi eravamo sostanzialmente a zero, adesso siamo al 60% di media giornaliera, abbiamo realizzato molte isole pedonali, stiamo per realizzare un grande parco urbano lungo 2 chilometri nel centro della città, togliendo le auto da questo viale e creando tutta una serie di attività e di strutture per una palestra all'aperto. Abbiamo sostituito tutte le lampade con lampade a LED, quindi utilizzando per consumare di meno, abbiamo lavorato sulla dispersione della rete idrica, abbiamo lavorato sulle reti ecologiche, sulla riqualificazione e rinaturalizzazione dei fiumi. Grazie a Laura Bettini per questo aggiornamento al rapporto ecosistema urbano 2017. Torniamo invece alla vicenda della quale ormai stiamo parlando da giorni, grande dibattito nel paese, sul fatto se i figli che vanno alle medie o insomma comunque che abbiano meno di 14 anni vadano recuperati a scuola, ovviamente creando un grandissimo problema per i genitori, soprattutto quelli che lavorano, che non possono essere là più o meno all'ora di pranzo quando questi ragazzi escono. Per riassumere la vicenda, c'è stata una sentenza di Cassazione che riguarda un caso del 2002 quando un ragazzino di 11 anni uscendo da scuola fu investito da un autobus e perse la vita. In quel caso ci fu almeno in parte la condanna per il preside dei docenti. Perché? Perché non avevano affidato questo bambino, questo ragazzino, ad un adulto. Da quella sentenza di Cassazione è scattato il panico tra i dirigenti scolastici e i docenti che hanno detto al ministro: intervenite per gentilezza perché rischiamo di essere responsabili penalmente per delle persone che sono insomma qua, in alcuni casi quasi a ridosso del liceo. È successo che il ministro Fedeli ha detto i genitori si arrangino, per poi ritrattare parzialmente, ed è successo anche che ieri il segretario del PD Matteo Renzi ha detto presenteremo una proposta di legge per cambiare queste norme in Parlamento. Se ne sta occupando Simona Malpezzi, che è del Partito Democratico. Malpezzi, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi e grazie. Che cosa prevede questa proposta? Una proposta di legge già depositata alla Camera, semplicissima, un articolo composto di 2 commi che va a colmare un vuoto normativo, perché sostanzialmente dice che i genitori possono, se vogliono, esonerare la scuola da qualsiasi responsabilità attraverso una sorta di dichiarazione. Una dichiarazione appunto che tutela la scuola e tutto il personale scolastico e dall'altra parte mira alla possibilità dei ragazzini di raggiungere un diverso livello di autonomia e di responsabilità, che poi è quello che è l'obiettivo che noi vogliamo. Ricordiamoci che la pronuncia della Corte di Cassazione è in linea con quello che dice il nostro ordinamento, sia dal punto di vista del codice civile che penale, che tutela il minore. Era necessario provare a trovare una sorta di gradualità. Sì, ascolti Malpezzi, lo dico a lei che tra l'altro è stata un'insegnante in una vita passata e forse non so se tornerà a farla, che cosa ha intenzione di fare, però è stata un'insegnante. Non è un po' troppo prescrittiva la stessa norma del codice penale? Perché non mi risulta che ci siano molti paesi nei quali si impone un'età precisa nella quale, come dire, sotto la quale si configura l'abbandono di minore. Non so, negli Stati Uniti sono solamente un paio di stati. Non credo che in Germania, Gran Bretagna, altri paesi, o Francia o altri paesi simili a noi, accada qualcosa di questo genere. Cioè questi 14 anni, no? Sotto i quali è l'abbandono di minore. Non è un po' troppo imporre un'età specifica? Ma non è tanto una questione di età, perché noi diciamo una cosa chiara, o meglio il nostro ordinamento. Ai 18 tu hai la cosiddetta maturità che ti consente di scegliere, quindi stai responsabile. Anche su quello ci sarebbe da discutere comunque. Sì, dopodiché è anche vero che fortunatamente la giurisprudenza ti consente gradualità e anche interpretazioni. Non è un caso che dai 14 ai 18 cambi, e allora noi abbiamo chiesto di fare un passaggio ulteriore, quello di garantire, a seconda di una valutazione rispetto ad autonomia, indipendenza, sicurezza che i ragazzini devono anche acquisire, di garantire questo anche ai minori di 14. Sì, però ripeto, quella norma del codice penale secondo lei sarebbe da cambiare oppure no, a suo giudizio? Io penso che sia bene che si tutelino i minori, questo sempre. Dopodiché poter mettere in atto delle misure che consentano margini di discrezionalità, come in questo caso, aiuta. Perché ricordiamoci che è un processo di crescita. Sì. Questo non lo dobbiamo sottovalutare. Però, la norma, quando si associa alla pedagogia... Però non mi ha risposto, mi scusi Malpezze, però non mi ha risposto. Sì, no, io ho risposto. Perché se lei dice abroghiamo un codice... Abroghiamo la norma, abroghiamo la parte nella quale si parla dell'età, insomma, nel senso che poi ogni ragazzino cresce in modo diverso, no? Sì, appunto, è quello che noi diciamo, lo abbiamo detto, lo dice già il sistema giurisprudenziale del 14 ai 18, lo abbiamo spostato dicendo che lo si può fare anche sotto i 14 anni. Questa è la linea che abbiamo tenuto, che è anche la più semplice da poter approvare in un certo senso, tanto che è una norma che non va a modificare, ma aggiunge, cioè colma un vuoto normativo. Grazie a Simona Malpezzi per essere stata con noi, deputata del Partito Democratico, che ha presentato questa appunto proposta di legge per modificare, per intervenire quantomeno su questo problema. Qualcuno ci scrive: nel mio paese i ragazzini di 10 anni girano in bici e tornano a scuola da soli. Fabio ha perfettamente ragione, poi soprattutto nei paesi piccoli anche i bambini ancora più piccoli vanno a scuola da soli, quindi è chiaro che da questo punto di vista c'è un problema. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo. E se ci riusciremo ci collegheremo con il sindaco di Enna, perché Enna è l'ultima in questa classifica di ecosistema urbano. E perché? Fondamentalmente perché gran parte dei dati non li ha nemmeno forniti. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. Nella manovra una nuova proroga per il bonus mobili e ristrutturazioni, detrazioni per i pendolari. Risparmio, migliora la situazione delle famiglie, riprendono i consumi, ma non vanno meglio le cose al sud. In Catalogna è stata chiesta l'incriminazione di Puigdemont per ribellione e sedizione. Gli incendi in Piemonte, la situazione è più tranquilla, ma sono bruciati ettari di boschi. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... La Trapp, le autentiche birre dei frati trappisti. Assapora il silenzio. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Saremmo in attesa di connetterci con il sindaco di Enna, Maurizio Antonello Di Pietro, per parlare del fatto che sono ultimi nella classifica Ecosistema Urbano 2017 presentata oggi, in gran parte perché non hanno fornito i dati. Vogliamo chiedergli conto di questo, ma il sindaco di Enna non ci risponde. Dunque, prima di chiudere, abbiamo giusto un paio di minuti, perché come sapete la puntata del lunedì è un pochino più corta, perché c'è Mario Platero e poi c'è, a partire dalle 13.45, Autotrasporti, e questo mi dà anche l'occasione per rispondere agli ascoltatori che ci chiedono: ma avete intenzione di parlare dello sciopero della logistica che si svolgerà nella giornata di oggi? Sì, lo faremo, e lo faremo anche in Autotrasporti, uno sciopero che si svolgerà nella giornata di oggi e in quella di domani e che già è iniziato questa mattina. Non vi preoccupate, abbiamo addirittura una rubrica dedicata qua a Radio 24 a questi temi, ai temi dell'autotrasporto. Solo una notizia, visto che abbiamo parlato di scuola e ne abbiamo parlato, come avete sentito, sul tema del recupero dei figli a scuola, soprattutto quelli delle medie, c'è una sentenza che è arrivata oggi, che è una sentenza importante ed è arrivata poco fa, ed è una sentenza importante perché è una sentenza esemplare che ha a che fare con il bullismo. La vicenda forse la ricorderete, è una vicenda che arriva dalla provincia di Torino, un ragazzo di 16 anni che aveva subito ripetuti atti non solo di bullismo ma delle vere e proprie sevizie, lo avevano spinto ad ubriacarsi, addirittura a mangiare degli escrementi, c'erano state delle sevizie con un ombrello, lo avevano costretto ad andare con una prostituta mentre loro guardavano in loro presenza, una serie di angherie che hanno condotto ad una condanna appunto esemplare a due ragazzi di 18 anni, una condanna a 8 anni e 6 mesi di carcere, sentenza arrivata dal Tribunale di Torino che, in base a una prima lettura del dispositivo, ha imposto anche l'interdizione dei pubblici uffici. La vittima era un compagno di studi, all'epoca appunto sedicenne dei due imputati, di qualche anno più grandi di lui. Ci fermiamo, andiamo a sentire Mario Platero, poi ci risentiamo per i saluti.